Questo programma è stato presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko da Valeria Lopa. L'anno nuovo è appena iniziato e qui in radio stacchiamo momentaneamente la spina per immergerci in un nuovo concerto radiofonico con The Show Must Go On, il programma dove ogni settimana si esibiscono gli artisti emergenti dell'Emilia-Romagna. L'ospite di oggi, però, non è Emiliano Romagnolo, ma ci ha contattati perché vuole essere adottato da quella che per lui è una città che profuma di arte e di cultura in ogni suo angolo. Conosce Bologna all'età di 18 anni e da quel momento in poi nasce in lui l'idea che ovunque vada, la musica sarà la sola e unica protagonista del suo cammino. E qui con noi a The Show Must Go On, Life. Ciao a tutti, innanzitutto grazie per avermi ospitato qua, per aver accettato la mia chiamata. Bologna è una città che mi è sempre stato detto essere una grande città per l'arte, per la cultura, per la musica, e quindi Bologna purtroppo è tra le poche città italiane che ancora non ho avuto il piacere di girare con la mia musica, e l'idea di poter venire qua anche a costo di treno, mascherina, controlli, tampone, eccetera eccetera, perché c'è da dire, raga, siamo tutti tamponati. Però con grande piacere, perché grazie a questa cosa sto scoprendo l'Emilia Romagna e Bologna. E allora cominciamo subito a far conoscere all'Emilia Romagna e a Bologna Life con il suo inedito Aria Pulita. Cosa scrivere, chi evidenzia il suo spazio tra gli altri, chi legge basta e coglie che siamo tutti fratelli in meridiani diversi, la teoria delle stringhe e i suoi 9 universi. Tu che ti siedi di fianco a me e mi chiedi che cosa c'è che non va, che mi vedi distratto, che non sono presente là. Verità sta nel mondo che pesa come un cielo di ghiaia sulle mie spalle, dai scrolla, le serve aria pulita, aria pulita. Serve aria pulita. Caratteri diversi, c'è chi non ci pensa, ci si ferma alle apparenze solo per convenienza. Sì, ma prima o poi qualcosa viene fuori. Senza capire, la discesa diventa salita e si fa fatica a salire. Ma tu, che ti siedi di fianco a me e mi chiedi che cosa c'è che non va, che mi vedi distratto, che non sono presente là. Verità sta nel mondo che pesa come un cielo di ghiaia sulle mie spalle, dai scrolla, le serve aria pulita, aria pulita. E sui 9 universi, in questo limbo di terra, cresciuti da madre terra, la vita non è una guerra che si rivolta nei 9 universi. E tu che ti siedi di fianco a me e mi chiedi che cosa c'è che non va, che mi vedi distratto, che non sono presente là. Verità sta nel mondo che pesa come un cielo di ghiaia sulle mie spalle, dai scrollale, serve aria pulita, aria pulita. Thank you. Abbiamo appena ascoltato Aria Pulita, brano inedito di Life, in anteprima, qui su Radio Città Fujiko. Il prossimo brano, Roberto, si intitola Sottosopra e affronta un tema abbastanza importante in cui molti giovani d'oggi si potrebbero rispecchiare. Dici che il mondo che stai vivendo è come se funzionasse al contrario rispetto alle tue aspettative. Infatti nel brano critichi con sottigliezza il consumismo emozionale, parli del finto moralismo che ogni giorno ci circonda. Secondo te, attraverso quali armi possiamo difenderci da questa situazione? Quali armi abbiamo a disposizione per sopperire a questo mondo che attualmente per me è sottosopra? Sì, io continuo a dirlo, la musica. La musica ha salvato questo mondo più volte. Io mi ricordo che le donazioni che sono state date dal concerto USA for Africa hanno salvato un sacco di vite. E io nel mio piccolo ho voluto fare questo con questa canzone, perché ci sono alcuni argomenti al giorno d'oggi che toccano un pochino tutti quanti noi. Questa mancanza di coerenza, questo bisogno di fare le cose veloci senza gustarsele, senza godersele e senza curarle. Noi generazioni nuove, insomma, siamo abituati davvero a correre sempre a destra e a manca senza mai fermarci. E non ci rendiamo conto che se non badiamo alle piccolezze del mondo, davvero la finiamo sottosopra. Io mi dico sempre, ma com'è possibile che la Chiesa, per esempio, la Chiesa sia un posto dove viene predicato del bene, dove si parla di altruismo, dove si parla di positività, dove si parla di amore e di pace, e poi a casa ci sono mariti che picchiano le donne solo perché queste donne hanno magari detto una bugia, e la bugia magari è stata detta perché avevano paura di dire la verità, perché già sapevano quello che andavano incontro queste donne. Ci sono mille altri casi, tra cui il consumismo emozionale, il fatto che appunto io mi innamoro di una persona e se non ci impiego, se ci impiego più di un mese, allora forse non è vero amore, o anche se mi innamoro comunque poi andrò a cercare qualcosa di nuovo. Perché? Perché non siamo più abituati a salvare quello che si è rotto, non siamo più abituati ad aggiustarlo, ma siamo abituati a cambiare perché è più comodo spendere qualcosina in più per prendere qualcosa di nuovo, quando invece forse a curare ciò che è rotto forse ci guadagneremo di più. Bellissima risposta, Roberto. Torniamo a noi. Immergiamoci nel secondo brano di Life, che è pronto per cantarci qui a The Show Must Go On il suo singolo Sottosopra. Ho spento la TV, è una giornata strana, aspiro e butto giù l'ennesima boccata amara, qualche messaggio a cui rispondere, ma adesso non mi va. A volte immagino che sia tutto sotto sopra, che perdonare aspetti di ricevere qualcosa e non pensare male perché poi ritorna. Non c'è bisogno di aggiustare ciò che si ricompra. Il consumismo emozionale dà peso ad ogni novità e ammazza la pazienza nell'attesa della rarità. La predica di un prete nell'Ave Maria e la violenza su una donna per una bugia. Non nego che fa male avere il posto mio, ma penso sia normale, ne faccio parte anch'io. Non ho niente da dare se non il cuore mio. Non so se può bastare che siamo figli di un mondo diverso, soldati caduti da tempo, scelti per cause ed effetti, pausa, rifletti e poi cogli nel senso che siamo figli di un mondo sommerso, figure disperse nel tempo, scelti per cause ed effetti, pausa, rifletti. Oh, na na na na. Oh, oh, oh, na na na. Oh, scindere il bene dal male secondo il proprio comodo mi fa pensare che tra il dire e il fare il tornaconto ed obbligo, ma a me conti non tornano, pareri che si evolvono, gli ultimi saranno i primi se il primo sta scomodo. E tu come fai a non farti coinvolgere essere. Si nasce, si cresce, si muore. Sei bianca ma non come neve. Non nego che fa male avere il posto mio, ma penso sia normale. Ne faccio parte anch'io. Ma cosa posso fare? Oh, desistere a un addio. Voglio lasciarmi andare, andare, andare. Oh, oh, oh. Che siamo figli di un mondo diverso, soldati caduti da tempo, scelti per cause ed effetti. Pausa, rifletti e poi cogli nel senso, dai. Che siamo figli di un mondo sommerso, figure disperse nel tempo, scelti per cause ed effetti. Pausa, rifletti. Oh, ed è incredibile, oh, come girino le spire. Oh, tolte le domande a volte, restano risposte. Oh, oh, oh, oh. Che siamo figli di un mondo diverso, soldati caduti da tempo, scelti per cause ed effetti. Pausa, rifletti e poi cogli nel senso. Che siamo figli di un mondo sommerso, figure disperse nel tempo, scelte per cause ed effetti. Pausa, rifletti. Questa era Sottosopra di Life, un brano che ci porta, ci spinge alla riflessione. E la riflessione è la protagonista indiscussa dei prossimi brani che ci presenterà Roberto qui. Il terzo singolo che ci proponi oggi è Davanti a me. L'ho ascoltato qualche sera fa su Spotify e mi sono resa conto che si tratta di una botta e risposta che fai con te stesso. E questo botta e risposta ti ha portato a una vera e propria accettazione della tua persona e della tua vita. Ti va di raccontarci com'è il Roberto di oggi rispetto a quello che ha iniziato la sua carriera anni fa? E quanto ritieni importante l'accettazione personale, anche in riferimento alla carriera artistica? Allora, Davanti a me è stato il primo brano che ho scritto e fatto uscire, insomma, è prodotto, è uscito a dicembre 2019 ed è appunto, come dici tu, è un brano che un po' è un botta risposta tra il me del presente e il me del passato. Ora, il me del passato era un Roberto che aveva un po' paura del mondo, aveva paura di dire quello che pensava, perché è sempre stato soggetto a critiche, a giudizi, e siamo sinceri, tutti quanti sappiamo quanto un dito puntato verso di noi possa farci ritrarre la pelle e i peli del corpo, insomma. Quindi io non ero mai riuscito ad essere me stesso, sinché non mi sono trasferito a Roma, mollando tutto quanto, tutto quello che avevo un lavoro, avevo comunque un'altra vita. Cambio vita, mi sposto a Roma, capisco che cosa volevo davvero io e non c'era modo migliore, insomma, che scriverci una canzone, proprio per far vedere invece il Roberto che c'è adesso. E chi è questo Roberto? È una persona di sicuro più sicura di sé. Ma non parliamo di essere montati, io spero sempre comunque di far trapelare la mia umiltà nel mio possibile, ma essere umili non vuol dire essere insicuri di se stessi, perché per far arrivare un messaggio a qualcuno la prima cosa è essere sicuri delle proprie parole, anche perché non so se vi ricordate il cartone di Bambi, ma una delle frasi che più mi è rimasta impressa è: se non hai niente da dire, non dire niente. E io invece, venendo a Roma, ho capito che avevo qualcosa da dire, quindi spero che lo ascolterete con tutta la gioia. Ascoltiamola allora, Davanti a me, Life. Davanti a me la città era scombra di tutto. Ora il verde del semaforo è quasi in pericolo. E quando sarai qui al mercato degli esseri umani, fa attenzione a chi mostra cosa tra le maniche. Dietro occhiali troppo chiari, nessuno è cieco. quando sarò sulla strada che mi porta verso casa raccogliendo le briciole. La superficie mi darà le indicazioni che ancora non ho. Sarà il mio tramite, intanto voglio limitarmi a osservare. Mentre mi ronza nelle orecchie il tuo nome con il suo rumore, mi consiglia che la pazienza è quella virtù che ti permette di ascoltare. Come esprimerlo, so soltanto che un buon sapore è quasi un incantesimo di cui non ti puoi spogliare. E sarà facile cadere esanime come chi ha trovato un angolo d'origine. Mi vuoi sposare tu, inconsistente bolla di sapone, che la tua luce fu il mio canto celibe. Ah, ah, va, va, va, va, va, va. Potrei fare pugni con il fuoco, seguendo gli ideali che mi convinceva. Mi guarderei allo specchio felice di essere ferito, perché so che l'avversario è messo peggio. Invece scrivo che sono un bivio, che da quando ci convivo nessuno lo sa. E forse è giusto, ma forse è sbagliato l'inconveniente che mi porta lontano. No, non più paura, no. Davanti a me, pepepe, yeah. Accettare noi stessi per quello che realmente siamo rimane pur sempre una sfida, ma Life ci ha appena suggerito che gli ostacoli sono fatti per essere superati. Proseguiamo la nostra riflessione pomeridiana con l'ultimo brano che ci hai voluto presentare qui a The Show Must Go On. Accendila. È un incoraggiamento per andare oltre alle ansie quotidiane, come un lasciarsi andare che porta a una conclusione felice. Vivi e lascia vivere. Come dirai anche tu nel brano che tra poco ci canterai. Raccontaci di come è nato questo brano e cosa ti ha spinto a vivere serenamente. Allora, Accendila nasce in una sala prove, anzi per la verità in un box auto, dove stavo suonando con i miei musicisti e con un chitarrista, Libero Benedetti, e il mio batterista nonché produttore musicale Luca Masotti, che ci tengo a salutare qua. E stavamo gemmando insieme, stavamo improvvisando e nacque la frase «Amico, accendila». Da lì io mi salvai questa frase, andai a scrivere una canzone, ma mi rendevo conto che anche lì volevo lasciare un messaggio. E quindi iniziai a strutturare questa canzone parlando di una persona conosciuta in un pub, con la quale ci si trovò molto bene a chiacchierare, a passare una serata insieme, se non che nel momento in cui chiesi il numero di telefono per risentirci, questa persona mi rispose che non era il momento di scambiarci i numeri di telefono e che se ci fossimo rincontrati da qualche parte, allora mi avrebbe lasciato il suo numero. E quindi io tornai a casa con quest'ansia addosso e dicevo: ma perché non mi ha voluto lasciare il numero di telefono quando saremmo potuti uscire di nuovo? E lì ho capito. Lì ho capito che la vita a volte ci lascia dei messaggi, ci lancia dei messaggi che noi non sempre acchiappiamo. Beh, io quella ragazza non l'ho più incontrata, però grazie a questa ragazza ho scritto una canzone che parla di vivi e lascia vivere, appunto. Quindi io sono tornato a casa e ho capito che non aveva senso avere ansia ed essere triste, perché la vita mi aveva portato una serata del genere e quindi avevo solo che da prendere il bello. E quindi sì, ragazzi, vivi e lascia vivere. Non preoccupiamoci di ciò che non possiamo avere o ciò che gli altri hanno e noi non abbiamo. Pensiamo a quello che abbiamo noi, pensiamo a come far fruttare quello che noi abbiamo e sarà la vita stessa a darci qualcosa di nuovo quando ne avremo bisogno. E allora questo è diventato anche un appello. Se tu, ragazza conosciuta in un pub, ci stai ascoltando, sappi che Roberto è qui da noi a Bologna su Radio Città Fujiko. Con Accendila, a The Show Must Go On, andiamo ad ascoltare il prossimo brano di Life. Perché il cellulare spento resta così com'è. Fingiamo che sia un caso che tu fossi lì di lunedì a bere con l'amica e quel che resta del tuo gin. Insegna all'università, così mi hai detto, che hai scelto di convivere un po' troppo presto, che chiudersi in un pub a soffocare il freddo, che senti a letto. Amico, accendi la luce, che sono in camera. Ti spiace quando vai a letto un po' troppo presto? Quell'aria esotica seduce e se ti provoca, lasciala fare e vedi a lasciarla fare. Oh, e come passa il tempo passa, noi restiamo qua la notte tarda. Io ti vedo e forse non mi basta, e a te va bene così, vivi e lascia vivere. Oh, non è possibile, cos'hai da perdere? Oh, e a te va bene così, a me no, a te va bene così, oh, oh, oh, a te va bene così, ai, ai, ai, ai. Amico, accendi la luce, che sono solo e non mi piace. Vorrei sentire la sua voce per farmi dire che non è stato male. Oh no, il porporale dona la ragione una, il fuoco amico tuo ma se lo tocchi brucia, leggera come se arrivasse dalla luna. So che le piace, so che mi consuma, ehi. E come passa il tempo passa, noi restiamo qua la notte tarda. Io ti vedo e forse non mi basta, te va bene così, vivi e lascia vivere. Non è possibile, oh, dormire bene se la mente viaggia in autostrada a 100 all'ora, mentre resto alle tue regole. Non è possibile, non è possibile, no, cos'hai da perdere? A te va bene così, a me no, a te va bene così, oh, oh, oh, a te va bene così, ai, ai, ai, ai. Oh, oh, ah, ah, oh. Vivi e lascia vivere, non è possibile, oh, dormire bene se la mente viaggia in autostrada a 100 all'ora, mentre resto alle tue regole. Non è possibile, non è possibile, no, cos'hai da perdere? Oh, e a te va bene così, a me no. A te va bene così, oh oh oh. A te va bene così, ai ai ai ai. Va bene così, a me no, a te va bene così, oh oh oh, a te va bene così, ai ai ai ai. E questa era Accendila di Life, qui con noi a The Show Must Go On. Prima di salutare i nostri ascoltatori, Roberto, vorrei chiederti se hai progetti futuri nel cassetto di cui ti va di parlare con noi e, soprattutto, quando verrai a trovarci di nuovo a Bologna. Allora, i progetti sono tanti. Io ad ora non ho la possibilità di parlarvi con chiarezza di tutto quanto. Sappiate solo che, appunto, c'è tantissima carne al fuoco che non vedo l'ora di farvi assaggiare, anche perché da un paio di settimane a questa parte ho firmato con l'etichetta Visory Records Swiss, che è un'etichetta che ha ascoltato i miei brani, gli sono piaciuti, hanno deciso di supportarmi e di credere in me. Quindi questo 2021 è l'inizio, spero, di un grande percorso. E non vi dico altro, vi dico andatemi a cercare su Spotify, venite a trovarmi su Instagram, perché ci saranno tantissime novità a breve. Quindi mi raccomando, rimanete connessi. Ciao ragazzi! Noi continueremo a seguirti, ti auguriamo il meglio per questo 2021 e siamo contenti che l'anno nuovo sia iniziato nel miglior modo possibile per te. Roberto Lai, in arte Life, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, per averci fatto riascoltare alcuni dei tuoi successi e soprattutto per averci fatto sentire il tuo inedito in anteprima. Ok, ci tenevo innanzitutto a ringraziare Valeria e tutti i ragazzi di Radio Città Fujiko perché mi avete reso, insomma, un bambino felice che scarta i regali il giorno di Natale, insomma. E quindi davvero felicissimo di essere qua, lo ripeto ancora una volta, insomma, mi trovate su Spotify, su Instagram, su Facebook, su YouTube, quindi venite ad ascoltare i miei brani. E per tutto il resto potrei dirvi buona giornata, potrei dirvi buon pomeriggio, potrei dirvi qualsiasi cosa, ma penso che l'augurio migliore da fare, soprattutto al giorno d'oggi, sia buona vita, perché di questo abbiamo bisogno. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Roberto, buona vita. Da Valeria Lopa è tutto, noi ci risentiamo giovedì prossimo sempre alle 16.30 e sempre qui su Radio Città Fujiko con nuovi artisti, nuove storie, nuove emozioni. Questo programma è stato presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music.